Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, siete all'ascolto di Italia in controluce, il programma di questa emittente dedicato all'inchiesta e alla reportage, un programma della redazione di Radio 24 condotto e coordinato da Daniele Biacchessi. Qual è l'apporto dell'industria musicale nel nostro paese, nel più ampio settore culturale? E in momenti di crisi economica, quali sono le difficoltà che vengono affrontate tutti i giorni, quotidianamente, dagli operatori musicali? Qual è il futuro? Quali soprattutto sono le soluzioni? Sentiamo insieme il reportage di Martina Zenton. La crisi in Italia c'è, ma non si risolleva senza la cultura. La dichiarazione è di Roberto Grossi, presidente di Federcultura, nel corso della presentazione a Roma dell'annuale report sullo stato della cultura in Italia. I dati: nel 2011 la spesa delle famiglie per la cultura ha raggiunto gli oltre 70 milioni di euro, aumentato rispetto al 2010 del 2,6%. In questo felice quadro i tagli del pubblico hanno raggiunto il meno 43% e i privati hanno ridotto i loro interventi del 40%. Intanto i lavoratori di uno dei settori culturali, quello musicale, da nord a sud fanno sentire la propria voce. A Milano l'occupazione del grattacielo Ligresti da parte dell'organizzazione Macao dei precari dell'arte ha sollevato una delle questioni riguardanti i liberi professionisti del settore, la mancanza di una tutela economica nelle cosiddette fasi di vulnerabilità e contro una fiscalità orientata verso il modello delle orchestre e delle compagnie stabili a sfavore della libera impresa. Francesco Corvino, professione batterista. Se fai una data e prendi 100 euro, 150 euro, dovresti fare 15 al mese per vivere. Se tu devi anche fatturare su questa cosa qua, si fa molta fatica. Se fai il 50%, il 40% va allo Stato, siccome le date non ci sono più, ne fai forse 5, 6 adesso, manca proprio la mentalità. È vero che il gestore del locale è in difficoltà, certo che se la gente non esce, però non danno nemmeno la possibilità. Loro potrebbero trovare, secondo me, anche un sistema nuovo. Dopo un susseguirsi di tavoli di mediazione per il Teatro di Musica e Lirica Vincenzo Bellini di Catania, si è giunti ad un ridimensionamento del paventato taglio regionale da 5 milioni, portando a 17 milioni i fondi messi a disposizione dalla Regione Sicilia per la prossima stagione musicale. Si parla in questo caso di 320 lavoratori, 268 stabili e una cinquantina di stagionali, 89 professori d'orchestra, 65 nel coro, 50 amministrativi e 100 di personale tecnico. Impiegati in un ente, quello del Teatro Bellini, che rientra nei teatri di tradizione, a carico quindi degli enti regionali. Tra loro Nino Scrima, per oltre 30 anni impiegato amministrativo del Bellini. La regione siciliana è una delle poche regioni, a onor del vero, che ha in carico almeno 6 strutture musicali. Il taglio originario era disastroso, perché avevano previsto 6 milioni di euro di riduzione. Cioè, un taglio c'è stato comunque, però non nell'entità che era stato preventivato, che ci avrebbe completamente messo in ginocchio. Ecco. In una regione martoriata dai debiti come la Sicilia, l'attività culturale incide per il 2% nel bilancio regionale. Per quanto riguarda il Bellini, da anni gli abbonamenti sono in costante aumento, ma il contratto nazionale dei lavoratori è scaduto ormai dal 2003 e i tagli in corso d'opera non fanno altro che incidere sull'impiego del personale stagionale, impiegato dopo il blocco del turnover, e sulla programmazione musicale ad ampio respiro, come ci spiega lo stesso Scrima. La regione, purtroppo, così come tutte le autorità politiche, non dico siciliane, ma di tutta Italia, quando ci sono i convegni e le passerelle fanno grande sfoggio per quanto riguarda la cultura. Poi che su certi aspetti della cultura bisogna rivedere l'organizzazione e la gestione anche, questo è un altro discorso che può essere affrontato, ma può essere affrontato su tavoli seri, che ci sia una volontà di, come dire, di migliorare. L'altra anomalia che succede, che accade, è quella che non prevedono una dotazione finanziaria con almeno un respiro triennale, ma di anno in anno. Ma questo poi evidentemente costituisce anche un pregiudizio da parte degli artisti che devono essere impegnati. La legge 368 del 98, con l'articolo 8 sulle gestioni autonome delle attività culturali, ha di fatto aperto la possibilità a sovrintendenze autonome finanziariamente di acquisire la gestione delle attività culturali senza perseguire scopo di lucro. A livello musicale, in Italia sono 14 le fondazioni operanti nel settore, 5.500 i lavoratori coinvolti. A Roma, città da cui è partita la manifestazione dei lavoratori del 28 maggio, si parla di 631 orchestrali per la Fondazione Sinfonica Teatro dell'Opera e 400 alla Fondazione Lirica Accademia Nazionale Santa Cecilia. Professori d'orchestra, artisti del coro e musicisti delle fondazioni lirico-sinfoniche italiane si sono ritrovati all'Auditorium Parco della Musica a Roma principalmente per due ragioni: il rinnovo del contratto collettivo nazionale e l'entrata in vigore a gennaio della prima penalizzazione per il perdurarsi del mancato accordo contrattuale, la cosiddetta legge 100. Danilo Grossi, professore d'orchestra da 35 anni di trombone per l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, gestita dalla Fondazione Teatro Opera di Roma, parla di penalità a senso unico. Ci sono penalità che riguardano solo i lavoratori e non, per esempio, i datori di lavoro. Siccome il contratto si firma in due, dal 1 gennaio è già andata in vigore la prima delle penalità, che è stata, ha avuto una larghissima eco anche a livello internazionale, perché prevedeva che per i musicisti delle orchestre e delle fondazioni non fosse più permesso concedere permessi artistici. Quindi noi non, in questo momento non possiamo avere nessun'altra attività se non quella per la fondazione di riferimento. Se non si firma il contratto, il 30 di giugno la legge 100 prevede una seconda penalità, che è ancora più pesante, che mette in discussione il secondo livello di contrattazione e quindi a quel punto ti mette decisamente le mani in tasca. Sei le fondazioni a rischio commissariamento, sorte toccata nel 2009 al Teatro dell'Opera di Roma, che risanati i conti ora ha un bilancio in pareggio. Comune di Roma e Regione Lazio hanno già annunciato 2,5 milioni in meno di contributi alla cultura per il 2013, che non fa gioire ma nemmeno terrorizzare gli addetti ai lavori, perché prosegue Grossi. Già il Comune, per esempio, e anche la Regione Lazio hanno annunciato che il prossimo anno faranno un taglio ai loro contributi al teatro. Già si sa che avremo 2,5 milioni di soldi in meno. In questa situazione, il fatto già che te l'annunciano ora di per sé porta positività, in modo che tu puoi scrivere un bilancio sapendo che quei soldi non ce l'hai. Ma per anni siamo andati avanti invece sta facendo tagli in corso d'opera, con bilanci già fissati e con soldi già spesi. Le fondazioni fanno già alla canna del gas dal punto di vista economico, salvo alcune che insomma riescono ad avere un apporto dei capitali privati, no? Le altre vanno avanti con i soldi che danno le istituzioni pubbliche, che diminuiscono a ritmi esponenziali. Di fondo fanno sapere i lavoratori riunitisi a Roma quella che è mancata in Italia è una reale legge di riforma del settore musicale, non tanto esclusivamente economica, denuncia Grossi. Da anni chiediamo che venga messa in piedi una riforma seria della musica in questo paese. Quello che sono riusciti a fare di corsa è stata questa legge 100, che non porta con sé nessuna positività. Questo è un settore che ha bisogno più di altri di strategia di programmazione, quindi di programmazione a lungo termine, da proprio da un punto di vista economico. È chiaro che se io voglio avere un famoso artista lo devo chiamare 3-4 anni prima, no? E se io non faccio questo, lavoro sempre in emergenza, rischio di avere meno qualità perché quelli bravi non li trovi da un giorno all'altro e li paghi di più. Quindi l'emergenza ti porta a non fare gare d'appalto e quindi anche la trasparenza dei soldi che spendi ne risente, ovviamente. È tutto un giro, insomma. Noi lo stiamo denunciando da anni, ma non succede niente. Un settore produttivo, quello musicale, che quindi secondo Grossi necessita di una strategia produttiva, ma che attualmente subisce una miope sottovalutazione. Siamo un paese che detiene, pare, dal 60 al 70% del patrimonio artistico mondiale. Tutto il mondo, se vuole vedere qualcosa, deve venire qua. Questo dovrebbe essere già da solo un motore economico rilevantissimo. Se già il paese cominciasse a pensare che quei soldi che spende nella cultura e nella musica sono investimenti e non spese, c'è proprio da un punto di vista economico una sottovalutazione di quello che è la capacità produttiva economica di questo settore, che esiste ormai da anni. La società non conosce, non ha modo di conoscere la difficoltà di questo mestiere. anche i conservatori, ma proprio anche l'insegnamento della musica nelle scuole è una cosa ridicola. In Italia chi fa questo mestiere guadagna in media un 30-40% in meno di chi lo fa al di là delle Alpi. A noi tutto sommato, nonostante si sforzano tanto per convincerci che non è il caso, continuiamo ad amare il nostro paese. E la reportage di Martina Azienton sul settore dell'industria musicale. Torniamo domani alle 13.30 su Radio 24.